Ciao a tutti, io sono Michael e benvenuti nel mio canale podcast. E questa è una puntata introduttiva, quindi andrò ad illustrarvi che cosa troverete su questo canale. Io tratterò principalmente di videogiochi, notizie sui videogame e sulle console e voglio dare qualche notizia anche per il fatto, spiegarvi più che altro, più che darvi qualche notizia, spiegarvi il perché, magari qualcuno si starà chiedendo perché hai deciso di fare un podcast e non un canale YouTube, cioè andando, non dico quasi controcorrente, ma poco c'è, poco ci manca. Allora, perché? Perché per quanto riguarda me, appunto, aprire un canale YouTube dove caricare video, anche come questo, cioè spiegarvi anche soltanto l'intro del video, mi verrebbe una cosa molto lunga. Sia per il fatto di girare il video, ma anche come rendering del video e caricarlo poi su YouTube, sul canale. Cosa invece molto più veloce col podcast e molto più libera, tra virgolette, perché appunto lo posso registrare in qualsiasi modo o quando voglio, magari in giro a piedi, attaccando l'auricolare al telefono, posso registrare il mio podcast e poi caricarlo direttamente in internet, oppure intanto che gioco, intanto che leggo una notizia su internet, ho molta più libertà col podcast in confronto a girare un video su internet. È vero che ormai tutti girano video su internet, anche su Facebook, su Twitter, ormai il girare il video per dire qualcosa è diventato ormai una moda, ma chi magari mi conosce un po' meglio nel dettaglio sa che a me delle mode non me ne frega poi più di tanto, cioè se lo fanno tutti non devo farlo anche io, anzi è la volta buona che magari io faccio il contrario. Questa è la prima puntata che sto registrando di podcast, ma devo dire che già adesso nel registrarla, mentre vi sto parlando, sto notando grandissime differenze tra appunto registrare un video e registrare un podcast. Mi sento più libero, più me stesso, più a contatto con voi, riesco a esprimermi magari più liberamente in confronto che davanti a una webcam o davanti a una telecamera per poi dover editare il video tagliando pezzi, sistemando l'audio, sistemando il video, doverlo caricare su YouTube. Mi viene, cioè, non è un lavoraccio, ma è una cosa molto lunga, molto lunga e a volte un po' frustrante. Ma anche perché non possiedo i mezzi per poter creare dei contenuti video all'altezza di altri. Non ho videocamera, non ho telecamere, neanche in 720p, neanche in 1080p, ma non ci penso neanche di spendere 90-100 euro per comprarmi una webcam per registrare magari 3-4 video. Mi sono sempre arrangiato con quello che avevo già e quindi se vi dico come sto registrando questo podcast un po' vi mettete a ridere. Cioè sono seduto sul divano col portatile acceso e sto registrando con le cuffie il microfono della PlayStation 4 che danno in dotazione per giocare online. Ecco, a me basta questo, cioè mi basta proprio un portatile e un microfono per poter esprimere i miei pareri ed è quello che voglio fare su questo canale. Ovvero, voglio esprimere i miei pareri oppure darvi notizie su videogiochi che sto giocando, che devono uscire, se lo prenderò, se non lo prenderò, che cosa mi aspetto da un determinato videogioco, le critiche di un videogioco, anche i voti, la stampa, l'uscita e il lancio di una nuova console, qualche consiglio magari su come affrontare determinate parti di un gioco o di come utilizzare al meglio una console, e via discorrendo. Mi piacerebbe anche creare una piccola community magari su Facebook o su Telegram, che comunque ho già aperto da moltissimi anni. Uno è la pagina Facebook che si chiama Artalon, dove appunto pubblico vari articoli, notizie del mondo dei videogiochi, immagini, foto e via discorrendo. Ho anche un blog che trovate sempre il link nella pagina Facebook e beh, ovviamente come hanno ormai tutti non so, l'account Twitter e Telegram e Instagram. Non uso un granché quello di Instagram perché non sono un gran fotografo. Cioè se scatto qualche foto magari a qualche determinato gioco o Collector Edition e poi le pubblico direttamente su Facebook. Non sto lì a metterle anche su Instagram, però beh, questi sono dettagli miei. E invece per quanto riguarda appunto la community abbiamo un canale Telegram dove trovate sempre il link sulla pagina Facebook di Artalon, e dove appunto ci scambiamo pareri, indiscrezioni, diciamo la nostra su un determinato titolo. C'è gente che appunto fa una specie di recensione su un gioco per consigliarlo ad altri o non consigliarlo. Ecco, quello che vorrei creare io è una community, una piccola community di 30, 40, 50 persone. Non ho bisogno di diventare famoso, ma neanche di diventare uno youtuber, se per quello ormai la mia carriera ce l'ho, il mio lavoro ce l'ho, ho la grande passione dei videogiochi e voglio condividerla appunto. E questa era la, questa è una, un piccolo modo per esprimere i miei pareri. Sì, in effetti il podcast lo trovo molto più rilassante, ma anche quasi molto più diretto, anche perché terminato di registrare questo audio, chiamiamolo così, verrà immediatamente caricato su internet nell'arco di 20-30 minuti, sarà già online, quindi anche il pensiero di leggere una notizia, di vedere una determinata cosa, di giocare a un titolo e di dire ok, va bene, adesso mi metto lì, giro il video, dico la mia, scrivo la trama, scrivo quello che devo dire, prendo la telecamera, la monto, cioè a quando ho preparato tutto e sono pronto per registrare, per girare, è già ora di andare a lavorare, oppure mi è già anche passata la voglia di farlo. Invece facendo così, come dicevo prima, mi basta attaccare le cuffie al telefono o al portatile, far partire la registrazione e parlare come sto facendo adesso. Lo trovo molto più immediato, e sì, molto più immediato, ma forse anche perché non sono un bel vedere anche da guardare in video, in camera, quindi da guardare su un video, quindi preferisco molto di più il podcast. Spero di portarlo avanti per un bel po' di tempo, grazie magari anche al vostro contributo, appunto, non so, scrivendo nei commenti, ascoltando gli audio, condividendo le pagine Facebook e l'audio stesso. Supportatemi un po' anche a voi, datemi qualche consiglio e spero che i contenuti che troverete in questo canale vi piacciano. Da Michael è tutto per questa prima puntata intro, alla prossima, vi ringrazio e buona giornata.